Cioè, noi prima di andare a Parco 22 Aprile abbiamo letto i giornali e detto, oh mio Dio, andiamo a Parco 22 Aprile e ci siamo trovati in una situazione idilliaca con milioni di attività. Ci sono campi da basket, campi da calcio, ci sono le bocce, ci sono gli anziani che giocano con i nigeriani in siciliano. Cioè, è una situazione bellissima, cioè l'integrazione sotto la forma di parco. Lo spazio pubblico al Parco 22 Aprile è innanzitutto un'opportunità perché la sua posizione baricentrica lo rende sicuramente indicato a diventare il cuore del quartiere, il fulcro di tutta la vita pubblica appunto che si può svolgere all'interno di esso, quindi riveste un ruolo importante. È una struttura che rimane completamente permeabile e rimane pubblica in tutti i momenti. Poi però ha le attrezzature necessarie per poter organizzarvi degli eventi di qualunque genere. Ad esempio c'è l'insegnante di yoga che fa yoga al parco al mattino, oppure c'è la band che si vuole fare le prove, oppure c'è l'infinito calendario di eventi estivi delle associazioni coordinate dal parco. Tutte queste cose in questo momento fanno molta fatica a trovare una loro collocazione proprio fisica. E quindi vorrei dare una risposta un po' a quelli che erano i desideri di tutte queste associazioni che hanno voglia di fare cose, ma fanno fatica ad avere gli strumenti per poterle fare. La trasparenza è una dimensione predominante nel nostro intervento al Parco 22 Aprile. Ci ha permesso di inserirci nel contesto del parco, mettendo direttamente in relazione la nuova presenza ed il paesaggio circostante. Gli alberi, la luce, le persone, la natura stessa entrano sia percettivamente che fisicamente all'interno del riparo e di Ora, l'opera realizzata con Edoardo Tresoldi, e con il passare del tempo la natura andrà a modificare l'aspetto di questi, andando ad armonizzarli sempre di più nel contesto. In questa maniera le nostre creazioni diventano una presenza effimera in un luogo che ha una storia e un'identità già ben definite, andando, si spera, ad arricchire il parco senza però stravolgerlo. Piantare nuovi alberi è sicuramente un gesto generoso nei confronti dell'ambiente e dei cittadini ed è stato fatto per dare l'esempio. Come ci ha suggerito il confronto con lo scienziato Stefano Mancuso, che per l'anno 2020-2021 ha collaborato con il gruppo G124 Renzo Piano, ogni nuovo progetto dovrebbe avere come caratteristica l'implementazione dell'elemento verde, così che le nostre città possano beneficiare nel tempo di questa grande risorsa. Piantare nuovi alberi ha significato anche avere un dialogo con le nuove generazioni. Abbiamo iniziato una collaborazione con gli studenti delle scuole elementari del quartiere, facendo adottare un albero ad ognuno di loro. L'affezione al luogo si è dimostrata fin da subito con un aumento delle visite al parco e con una sensibilizzazione ai temi dell'ambiente.